Rude boy, rude boy, rude boy. Tagli i miei pensieri fino a 3 secondi, altrimenti mi perdo tra la merda dei due mondi, dove il dolore diventa una ricerca. Qui tocca scappare con la porta aperta. Corro con la moto, sono senza direzione. Forse sto seguendo solo un raggio di sole. I miei demoni mi seguono sopra un CBR. Apro il gas mentre arrivano le stelle. Io correvo a 100 all'ora mentre questa vita andava. Pensavo che a fermarmi c'eri tu. Tutta quella gente che in silenzio mi guardava. Pensava non sarei tornato più. Ma sono un ghost rider e cercherò il mio cuore in ogni angolo del mondo. Non mi fermerò mai. Rude boy, rude boy. Quando il sole sta morendo faccio incubi da sveglio. Rude boy. I miei demoni mi trovano per lasciare il segno. Rude boy. Quando il sole sta morendo faccio incubi da sveglio. Rude boy. I miei demoni mi trovano per lasciare il segno. Rude boy. Lasciare il segno. Rude boy.